di queste lapidi, di questi cippi. Questo non è particolarmente visibile, anche se quando fu messa non c'erano tutte queste vie qua giù, c'era via delle Panche, quindi era solo via delle Panche, quindi era un passaggio centrale, insomma, che gli abitanti del quartiere, oltretutto non passavano un mattino, insomma, perché è una lapide del 47. E quindi non è particolarmente visibile, non è neppure granché da un punto di vista estetico, e c'è pure anche un errore ortografico, però sembra quasi proprio un voler accentuare il nazifascismo, cioè proprio. È fu messa dagli abitanti delle Panche un giorno, così vennero messe questa lapide, quindi anche senza, come dire, senza un sostegno istituzionale, proprio per gli abitanti. Iniziativa popolare, proprio. Sì. Una particolarità è che, a differenza della stragrande maggioranza dei cippi, delle lapide che ci sono nei quartieri, non ricorda un eccidio oppure un'azione partigiana. È semplicemente un voler ribadire, un voler far vedere a tutti la memoria e il vissuto antifascista del quartiere. Ce ne sono solo altre due in zona che, diciamo, sono lapide in senso generale. Una alle Tre Pietre, ci passiamo prossimamente, e una al muro della Villa di Castello e la Villa Reale. E infatti tutte e tre, questa c'è scritto soltanto Le Panche, l'altre due c'è scritto proprio Il Popolo delle Tre Pietre, e laggiù c'è scritto Il Popolo delle Tre Pietre di Castello e del Sole, proprio perché appunto sono targhe, come dire, popolari, insomma. Ed è pieno perché ci sono alcuni aspetti particolari, insomma, rispetto alla resistenza in questa porzione di città. Il primo è che chiaramente era una zona appunto popolare, e quindi molti degli abitanti hanno partecipato direttamente o indirettamente alla battaglia antifascista. Gli altri due sono un po' più particolari, come che stanno sopra le pendici della collina, insomma, vicino a Monte Morello, e quindi su Monte Morello si è concentrato, prima della battaglia per la liberazione di Firenze, come dire, le bande partigiane, insomma, no? Quelli che andavano su in montagna, appunto a Firenze, andavano a Monte Morello. Quindi questa era una zona di passaggio, sia da un punto di vista del rifornimento di viveri, di armi per chi era sulla montagna, sia dal punto di vista del passaggio proprio dei soggetti, donne e uomini, che andavano, che si univano alle bande partigiane. Il terzo aspetto è che la liberazione di Firenze è iniziata dal sud, quindi quando si è via 11 agosto è dedicato appunto al giorno che viene ufficialmente considerato come liberazione di Firenze, ma in realtà tutta questa zona, la zona che parte, diciamo, da Piazza Dalmazia per poi arrivare fino a Sestro, Valenzano, Campi, fu liberata dopo, e quindi qui si concentrarono, come dire, le battaglie, gli scontri più feroci, insomma, anche perché stavano proprio mandando via i nazisti, e loro, come dire, era il punto dove hanno resistito di più, tant'è che c'era una linea di difesa che partiva dal ponte di mezzo, una linea trasversale, cioè est e ovest, che partiva dal ponte di mezzo, passava appunto da Piazza Dalmazia, poi arrivava fino a qui, e quindi appunto essi sono concentrati le battaglie più pesanti. Il comando nazista, dopo che fu scacciato da Piazza Dalmazia, si trasferì alla Castellina, alla villa che c'è qua giù sopra. Alla Castellina, la villa della Castellina. Lì c'è stato un altro episodio della resistenza antifascista, caratterizzato dalla presenza di Pietro Squitieri, che fu ucciso proprio lì. Qui si parla di già, per dirvi quanto è durata, insomma, la battaglia per liberare questa zona di Firenze, già il 4 settembre. È considerato purtroppo l'ultimo caduto partigiano in città. Lui tentò, insieme ad altri due, di sottrarre, entrando dentro il comando, nel giardino, diciamo, della villa del comando tedesco, due mitragliatrici, e ci riuscì. La notte successiva ritornò e fu trovato morto, probabilmente per effettuare un'altra incursione, cioè aveva 21 anni, e fu trovato ucciso da un proiettile tedesco, insomma, da un proiettile in dotazione a chi aveva le armi tedesche. Quindi appunto la particolarità di questa zona è questa, insomma. Ci sono queste tre lapidi, ho detto prima, c'è farmaceutico, ci sono altri posti, c'è Via Crocetta dove arriveremo, ma ce ne sono anche altri. E per esempio al cimitero di Castello, di San Michele, quello di Castello, ci sono anche le lapidi, le sepolture, sia di quelli che furono trucidati al farmaceutico, sia di tanti altri partigiani che hanno pagato appunto con la vita, insomma, per la liberazione della città dai nazisti.